Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Solite, rutinarie e noiose informazioni di servizio. Il sito radio24.it, ma aggiungo anche, non ve l'aspettavate, ilsole24ore.com. In entrambi, oltre a ricche notizie, potrete trovare anche il dialogo con chi vi parla attraverso il mio blog Guardie o Ladri. Seconda informazione è quella della nostra mail, che è unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, devo dire che questa mail è stata raggiunta da un radioascoltatore romano che fa presente per l'ennesima volta problemi, diciamo così, di navigazione su internet, di scaricamento, credo che si dica così, io non sono molto esperto, ma credo di sì, di programmi o comunque diciamo così, contenuti che viaggiano nella rete ma che poi offrono anche delle spiacevoli sorprese. E oggi parliamo di un sito che, tra l'altro, lo capiremo con il colonnello Umberto Rapetto, è ovviamente anche attenzionato, come si dice con un brutto termine, burocratico, proprio dal nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di Finanza. Io direi però proprio di partire con la storia proposta dal nostro radioascoltatore romano Mauro Bellini. Buongiorno Bellini. Sì, buongiorno. Allora, racconti un pochino la sua avventura con questo sito internet che è easydownload.info. Esatto, io cerco di scaricare un programma OpenOffice, che è un programma gratuito, aperto a tutti, cliccando su uno dei primi di questo Google, di questa ricerca, mi è apparso il frontale di Easy Download, il quale non faceva nessun riferimento a nessun pagamento, nulla. Mi richiede di scaricare e io ho spinto download, certo, il programma. Certo. Dopodiché mi ha chiesto dei dati. Sono convinto che non ci fossero altre informazioni o richieste di soldi, sono convintissimo, e quindi mi hanno richiesto questi dati, conferma, e poi mi è stata inviata un'email dopo la quale potevo accedere a questo scarico. Poi ho scaricato praticamente il programma, sì. Non ho ricevuto più nulla, se non dopo 12-13 giorni è arrivata la prima richiesta di iscrizione a questo sito. Guardi, io confermo che secondo me inizialmente non c'era nessuna richiesta di pagamento. Perché? Perché non sono giovanissimo, quindi per me internet è una scoperta e sono molto cautelativo. Certo. Non pago mai con carta di credito, ma una carta prepagata, non ho mai messo password sul computer proprio per un problema, certo, di sicurezza. Quindi se avessi trovato qualcosa riguardante il pagamento, si sarebbe quantomeno allarmato o comunque avrebbe scelto di pagare o meno. Sì. Ecco, ma questa richiesta di pagamento come le è arrivata? Via email. Ecco. Sono qui davanti, un servizio di pagamento, codice cliente, lei ha fatto questa iscrizione praticamente, mi chiedeva ovviamente, c'era allegata un bonifico su una banca che dovrebbe essere slovacca di 96 euro entro una certa data che era abbastanza vicina al giorno in cui, certo, ho chiesto di me. Ma scusi, ma se lei non paga, per quelle che sono le sue conoscenze, poi ovviamente poi andremo da colonnello Rapetto, ma se lei non pagasse o se lei non ha alcuna intenzione di pagare, che cosa succede? Lei lo sa? Guardi, si è creato un blog su Facebook in cui hanno aderito quasi 1400 persone che hanno avuto lo stesso problema. Si è risaliti a questa compagnia, praticamente gestita da due persone che ricorrono spesso in altre frodi similari sia in Inghilterra che in Germania. In quei casi, diciamo, l'Unione dei Consumatori sono riusciti anche a chiedere un risarcimento a questa compagnia. Ma scusi, ma se lei non pagasse, ripeto, non perché voglia mettere in difficoltà, ma proprio per capire se il consumatore, il cittadino, quale è lei, quale sono io, quale siamo tutti, ha conoscenza o meno di queste cose. Ecco, se lei non pagasse, ha idea di che cosa potrebbe succederle oppure no? Diciamo, c'è l'esperienza precedente per cui arriveranno 2-3 email di sollecito, dopodiché arriverà sempre un'email di un avvocato e poi non so quello che fare. Io ho già scritto alla Associazione Nazionale dei Consumatori per una classe che certo. No, ma il tema è interessantissimo e anche inquietante, perché spesso poi alla fine anche i nostri ragazzi stanno di fronte a questi computer e magari scaricano non conoscendo e poi chiunque può trovarsi nei guai. Non dico i ragazzi che siano, come dire, incapaci di intendere di volere, anzi spesso ne sanno molto più di noi adulti, però ecco, magari un ragazzo che ha esigenza di scaricare non sta a guardare troppo per il sottile. Allora, sono d'accordo con lei, infatti secondo me loro contano sull'aspetto psicologico, certo, perché richiedono 96 euro per 2 anni, che non sono una cifra elevatissima, certo, quindi certo, si certo, può permettere, certo, magari per evitare problemi prende, paga il bonifico, eh sì, indubbiamente. Allora, io infatti tante email, mi scusi, termino, su questo blog che avviene, denotano proprio questo tipo di ansia da parte dei consumatori, di queste persone, diciamo, che sono state raggirate, certo, certo, capito? Quindi è su questo secondo me che loro contano per avere. Benissimo, allora il caso mi pare abbastanza chiaro. Colonnello Umberto Rapetto, comandante del nucleo speciale di frodi telematiche della Guardia di Finanza, già nostro ospite moltissime volte della radio del Sole, ormai un esperto riconosciutissimo non solo in Italia ma direi molto più forse di quanto accade in Italia fuori dai confini nazionali. Buongiorno colonnello. Buona giornata, vorremmo poter avere una macchina velocissima per arrivare a Quirinstrasse al numero 8 per trovare in quel di Francoforte la Eurocontet, che è la struttura che ha organizzato questa micidiale, mettiamolo tra virgolette, gabola. Certo. È una situazione molto imbarazzante perché questi signori hanno inizialmente catturato nella loro rete un mucchio di soggetti ignari e quando questi hanno cominciato a lamentare il fatto che non c'era alcuna informazione hanno riveduto il look del loro sito in maniera tale da poter mettere in bella evidenza che è un servizio a pagamento. Servizio a pagamento con un contratto biennale che prevede delle condizioni contrattuali dettagliatissime. Naturalmente quando ci si domanda ma se io non pago che succede? Esatto. Viene in mente la battuta che potremmo riprendere dal film con Leonardo DiCaprio, prova a prendere, perché sicuramente questi non credo si faranno mai vivi. Noi abbiamo adesso contatti con i colleghi tedeschi per poter cercare di individuare non soltanto chi ha nel frattempo riempito le proprie casse confidando nella paura, e certo, e certo, certo, con tono imperioso, con quell'imperativo che va a dire se non mi paghi ti arriverà l'avvocato e poi chissà quale altra ingiunzione. E allora si tratta di capire cosa sta succedendo. Intanto, leggendo le norme contrattuali che vengono cambiate di volta in volta, quindi diventa difficile persino ricostruire quelle che erano coeve e quindi avevano vigore al momento in cui ogni singolo caduto nell'inghippo possa dover fare riferimento. Certo, e allora certo, che cosa succede? Leggendo quelle di oggi si scopre, tanto per cominciare, che la Eurocontent LTD, quasi fosse di diritto britannico, si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualunque momento le condizioni di vendita, e questo non è una buona garanzia perché possono fare tutto quello che vogliono. Certo. Ma c'è da dire che da nostra parte, andando a leggere per bene ciascuna clausola, ha scritto la piccola, piccola, piccola, come si conviene quando si vuole gabbare, certo, viene fuori che qualunque richiesta di registrazione che provenga da soggetti che non hanno compiuto i 18 anni, noi ci sono lamentati un mucchio di genitori che dicono mio figlio che voleva prendere il software che era gratuito per fare prima lo ha scaricato utilizzando Easy Download, certo, era una cosa legale, ma perché adesso ci chiedono i soldi? Certo. E allora se leggiamo il contratto dice che le richieste di registrazione provenienti da persone che abbiano compiuto i 18 anni di età non saranno di norma accettate, e allora salvo che la richiesta di registrazione non pervenga da una persona minore di 18, il contratto si intende concluso in quanto si procede all'invio della richiesta di registrazione. E questo è il primo punto che potrebbe far scappare dalle loro maglie tutti quelli che dicono chi lo ha fatto non aveva l'età. D'altronde non è possibile sincerarsi delle maggiore età del soggetto che dall'altra parte sta agendo. Non solo, nel momento in cui da loro fanno riferimento alla normativa in materia di riservatezza dei dati, quindi la norma in materia di privacy, dicono che nel caso in cui il cliente rifiuti di prestare il consenso al trattamento dei dati, il contratto non potrà essere concluso. Queste sono già due vie di uscita. Teniamo conto che il foro competente, loro per sembrare buoni, dicono che le condizioni di accesso al sito sono rette dalle norme di diritto italiano e devono essere interpretate in conformità con le leggi italiane. E noi sappiamo perfettamente, ci sono all'interno di questo complicatissimo testo del contrattuale dei riferimenti a quelle che sono le norme vigenti in materia di acquisizioni, acquisti che si possono fare a distanza, e conseguentemente esiste una tutela del consumatore che compra per corrispondenza, diciamo così, in questo caso attraverso internet, e c'è la possibilità di recedere da quello che è stato stipulato entro un determinato termine. Bene, io, colonnello, la fermo qui perché lei è stato chiarissimo e la sintesi di tutto è attenzione quando vi trovate di fronte a easydownload.info, perché tanto easy, tanto semplice non è, anzi abbiamo scoperto che è tutt'altro, e grazie al radioascoltatore che ci ha segnalato questo, Mauro Bellini da Roma, in regia Peter Bescapè, in studio a Valeria Coffaro, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.